orecchie fartenti, il campo vuoto ne andò. Rigidi il ferro, oddio, sento fuggir dal seno l'anima disperata. E vengo, il mio comando non è ancora eseguito. Ora s'arresti Osira e s'assicuri. Altri di voi in catene in argippo. Superbero, fa pompa della tua crudeltà. Anne, o Silvero, sia tua la cura. Vado, accenno fiero.